Intanto, col finire dell'estate, quando scendevano dal treno a Deauville, il sole, smorzato dalla foschia, non era più nel cielo d'un uniforme color malva che un blocco rosso. Alla grande pace che scende di sera sui prati fitti e salmastri e che aveva indotto molti parigini, pittori per la maggior parte, a venire in villeggiatura a Deauville, s'aggiungeva un'umidità che li faceva tornare di buon'ora ai loro villini. In parecchi era già accesa la lampada. Fuori non restavano che alcune mucche a guardare il mare muggendo, mentre altre, più interessate all'umanità, volgevano la loro attenzione verso le nostre vetture. Un pittore che aveva montato il cavalletto su una piccola altura si cimentava solo nel tentativo di rendere quella vasta calma, quella quiete luminosa. Forse le mucche gli sarebbero servite, inconsapevoli e benevole, da modelli, giacché il loro aspetto meditabondo e la loro presenza solitaria contribuivano in modo singolare, una volta ritiratisi gli umani, alla potente impressione di riposo che esala dalla sera. E la trasposizione non fu meno piacevole quando, alcune settimane dopo, col progredire dell'autunno, i giorni si fecero decisamente corti e si dovette viaggiare di notte. Se di pomeriggio ero andato a fare un giro, bisognava tornare a cambiarsi non più tardi delle 5, quando ormai il sole rosso e rotondo era sceso a metà dello specchio obliquo, un tempo detestato, e, simile a un fuoco greco, incendiava il mare nei vetri di tutte le mie librerie. Poiché la magia di qualche gesto aveva suscitato, mentre mi infilavo lo smoking, l'io frivolo e vivace che subentrava in me quando andavo a pranzare a Rivebelle in compagnia di Saint-Lô, o la sera in cui avevo sperato di portare Mademoiselle d'Estermaria a pranzo sull'isola del Bois, canticchiavo senza rendermene conto lo stesso motivo d'allora. Ed era solo accorgendomene che, dalla canzone, riconoscevo l'intermittente cantore, il quale in effetti non ne sapeva altre. La prima volta che l'avevo cantata, cominciavo ad amare Albertine, ma ero certo che non l'avrei mai conosciuta. In seguito, a Parigi, era stato quando avevo smesso d'amarla e pochi giorni dopo averla posseduta per la prima volta. Adesso era amandola di nuovo e sul punto d'uscire a pranzo assieme a lei, con grande dispiacere del direttore, il quale, convinto che avrei finito con l'installarmi alla Raspellière, lasciando il suo albergo, assicurava d'aver sentito dire che da quelle parti imperversavano febbri dovute alle paludi del Bec e alle loro acque inclinate. Ero felice della molteplicità che scorgevo così nella mia vita, spiegata su tre piani. Senza contare che quando, per un istante, ridiventiamo quelli d'una volta, cioè diversi da come siamo da tanto tempo, la sensibilità, non più attutita dall'abitudine, riceve dalle minime scosse impressioni così vive da far impallidire tutto quanto le ha precedute e alle quali, a causa della loro intensità, ci aggrappiamo con l'esaltazione passeggera d'un ubriaco. Era già buio quando salivamo nell'omnibus o nella vettura che ci portava alla stazione a prendere il trenino. Nella hall, il primo presidente ci diceva: andate alla Raspellière, Terdiana. Ha un bel coraggio, Madame Verdurin, a farvi fare un'ora di treno, nottetempo, soltanto per un pranzo. E rimettervi in viaggio poi alle 10 di sera con un vento del diavolo. Decisamente si vede che non avete niente da fare, aggiungeva stropicciandosi le mani. Parlava così, verosimilmente, per la rabbia di non essere invitato e anche per la soddisfazione che gli uomini occupati, fosse anche nel più stupido dei lavori, ricavano da non avere il tempo di fare quel che fate voi. Certo, è legittimo che chi stende rapporti in colonna cifre, risponde a lettere d'affari, segue l'andamento della borsa, provi nel dirvi, sogghignando, buon per voi che non avete niente da fare, un gradevole sentimento della sua superiorità. ma questa risulterebbe non meno sprezzante, anzi di più, giacché andar fuori a pranzo lo fa anche l'uomo indaffarato, se il vostro svago consistesse nello scrivere Amleto, o anche solo nel leggerlo. È in questo che gli uomini indaffarati mancano di riflessione. Dovrebbero pensare, infatti, che la cultura disinteressata, giudicata da loro un ridicolo, ozioso passatempo, se la sorprendono mentre la si pratica, è la stessa che, nella loro professione, eleva fuori classe degli uomini i quali, forse, non sono migliori magistrati o amministratori di loro, ma di fronte alla cui rapida carriera, essi si inchinano dicendo: «Pare che sia un grande letterato, una persona davvero fuori del comune». Ma soprattutto, il primo presidente non si rendeva conto che a piacermi, in quei pranzi alla Raspellière, era loro costituire, come egli diceva giustamente, sebbene con intento critico, un vero e proprio viaggio. Un viaggio il cui fascino mi appariva più vivo perché non ne rappresentava lo scopo, perché non era affatto in esso che si cercava il piacere, piacere attribuito invece alla riunione cui ci si recava e che non mancava d'essere fortemente modificato da tutta l'atmosfera nel quale era immerso. Era già buio adesso, quando scambiavo il calore dell'albergo divenuto il mio focolare, con il vagone sul quale salivo con Albertina e dove, dal riflesso della lanterna sul vetro del finestrino, capivamo, a certe fermate del bolso trenino, d'essere arrivati a una stazione. Per non correre il rischio di non essere visti da Cotard, e poiché non avevo sentito gridare il nome della stazione, aprivo lo sportello. Ma a precipitarsi nello scompartimento non erano i fedeli, bensì il vento, la pioggia, il freddo. Nell'oscurità distinguevo i campi, sentivo il mare, eravamo in aperta campagna. Albertine, prima che ci riunissimo al gruppo, si guardava in uno specchietto estratto da un SSR d'oro che aveva con sé. Le prime volte, infatti, Madame Verdurin l'aveva invitata a salire nel suo cabinet de toilette perché potesse mettersi in ordine prima del pranzo, e io, nel bel mezzo della calma profonda in cui vivevo da un po' di tempo, avevo provato un piccolo moto di inquietudine e di gelosia, vedendomi costretto a lasciare Albertine ai piedi della scala, e m'ero sentito poi così ansioso mentre ero solo in salotto, circondato dal piccolo clan, a chiedermi cosa stesse facendo lassù la mia amica, che il giorno dopo, per corriere, informatomi presso il signor di Charlus su quel che ci fosse di più elegante, avevo ordinato a Cartier un nécessaire che faceva la gioia di Albertine e anche la mia. Era per me un pegno di tranquillità, nonché della sollecitudine della mia amica, perché lei, di certo, aveva intuito quanto mi dispiaceva che restasse sola, senza di me, in casa di Madame Verdurin, e s'arrangiava a farsi in treno tutta la toilette preliminare al pranzo. Al novero degli abitué di Madame Verdurin, e fedelissimo fra tutti, apparteneva ormai da diversi mesi il signor di Charlus. Regolarmente, 3 volte alla settimana, i viaggiatori che sostavano nelle sale d'attesa o sul marciapiede di Doncier West vedevano passare quell'uomo corpulento con i capelli grigi, i baffi neri, le labbra ravvivate da un belletto meno evidente alla fine della stagione che in estate, quando la luce del sole lo rendeva più crudo e il caldo lo liquefaceva a mezzo. Mentre si dirigeva verso il trenino, non poteva trattenersi, solo per abitudine da intenditore, giacché adesso il sentimento che provava lo rendeva casto, o almeno, per la maggior parte del tempo, fedele, dal gettare sugli uomini di fatica, sui militari, sui giovani in tenuta da tennis, uno sguardo furtivo, al tempo stesso inquisitorio e timorato, affrettandosi poi ad abbassare le palpebre sugli occhi semichiusi con l'unzione d'un ecclesiastico che stia dicendo il rosario, con il riserbo d'una sposa votata al suo unico amore o d'una fanciulla ben educata. I fedeli erano sicuri che non li avesse visti, anche perché saliva in uno scompartimento diverso da loro. Lo faceva spesso anche la principessa Scherbatov. Come chi, ignorando se gli altri saranno o no contenti d'essere visti in sua compagnia, lascia loro la facoltà d'andare a trovarlo se ne avranno voglia. Voglia che le primissime volte il dottore non aveva provata, tanto da insistere perché lo lasciassimo solo nello scompartimento. Poiché, da quando aveva una grande posizione in campo medico, portava con disinvoltura il suo carattere esitante, fu sorridendo, rovesciandosi all'indietro, guardando Schi da sotto l'occhialetto, che egli disse, maliziosamente o per sorprendere di straforo l'opinione dei compagni: «Capite, se fossi solo, scapolo, ma così, dato che c'è mia moglie, mi chiedo se posso lasciarlo viaggiare con noi. Dopo quello che mi avete detto», bisbigliò il dottore. «Cosa dici?» chiese Madame Cottard. «Niente, non ti riguarda. Non sono cose da donne», rispose il dottore strizzando l'occhio, con una maestosa soddisfazione di sé, che stava a metà strada fra l'aria finto seria, da cui non si scostava mai di fronte agli allievi e ai pazienti, e l'inquietudine che accompagnava un tempo le sue battute di spirito in casa Verdurin. E continuò a parlare sottovoce. Madame Cottard afferrò solo le espressioni confraternita e uno di quelli, e poiché, nel linguaggio del dottore, la prima designava la razza ebraica e la seconda le lingue troppo lunghe, ne concluse che il signor di Charlieu doveva essere un israelita chiacchierone. Non si capacitò che per questo si tenesse il barone in disparte. Ritenne suo dovere di decana del gruppo esigere che non lo si lasciasse solo, e ci incamminammo tutti verso lo scompartimento di Charlieu, guidati da Cottard, sempre perplesso. Dall'angolo in cui sedeva leggendo un volume di Balzac, Charlieu colse questa esitazione, eppure non aveva alzato gli occhi. Ma come i sordomuti capiscono da una corrente d'aria, per gli altri inavvertibile, che qualcuno sta arrivando dietro di loro, così il barone aveva, per accorgersi di una freddezza nei suoi confronti, un'autentica iperacuità sensoriale. Questa, come è solito fare in ogni campo, aveva provocato a Charlieu una serie di sofferenze immaginarie. Come i neuropatici che, sentendo un po' di fresco, ne deducono che deve esserci una finestra aperta al piano di sopra, si mettono in agitazione e cominciano a starnutire, il signor di Charlieu, se qualcuno in sua presenza si mostrava preoccupato, deduceva che a questa persona fosse stato riferito qualcosa che egli aveva detto sul suo conto. Ma non occorreva nemmeno che quel tale avesse un'espressione distratta o cupa o sarcastica. Pensava lui a inventarsele. In compenso, la cordialità aveva facile gioco a nascondergli le maldicenze di cui era all'oscuro. Avendo indovinato al primo colpo l'esitazione di Cottard, tese la mano ai fedeli, lasciandoli stupefatti, giacché credevano di non essere stati ancora scorti dal lettore occhi chini, non appena furono a giusta distanza, mentre con Cottard si limitò a un'inclinazione di tutto il corpo, subito bruscamente raddrizzato, senza prendere nella mano guantata di camoscio quella che il dottore gli aveva tesa. «Tenevamo assolutamente a fare il viaggio con voi, signore, e a non lasciarvi qui tutto solo nel vostro cantuccio. È un grande piacere per noi», gli disse gentilmente Madame Cottard. «Onoratissimo», recitò il barone inchinandosi con freddezza. «Sono stata davvero felice di sapere che avete scelto definitivamente questa zona per fissarvi i vostri tabernacoli, ma la parola le parve ebraica e dunque poco cortese per un ebreo che avrebbe potuto cogliervi un'allusione. Così, riprendendosi, scelse un'altra delle espressioni che le erano familiari, cioè un'espressione solenne. Per fissarvi, volevo dire, i vostri penati. È vero che nemmeno tali divinità appartengono alla religione cristiana, ma quella a cui si riferiscono è morta da tanto tempo che non ha più adepti di cui si possa temere d'urtare la suscettibilità. Noi, purtroppo, con la riapertura delle scuole e il servizio in ospedale del dottore, non possiamo mai eleggere domicilio molto a lungo in uno stesso luogo. E, mostrandogli uno scatolone, vedete del resto quanto noi donne siamo meno fortunate del sesso forte? Per recarci in un posto tutt'altro che lontano, come la casa dei nostri amici Verdurin, siamo costrette a portarci dietro tutta una gamma di impedimenta